L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati. Cambio di programma. I miei genitori hanno deciso di andare in Romania a trovare mio fratello Charlie. Lui studia i draghi lì. Bene, così puoi aiutare Harry. Lui dovrà andare in biblioteca a cercare informazioni su Nicholas Flamel. Abbiamo cercato centinaia di volte. Non nella sezione proibita. Tra gli effetti di questa emergenza, il coronavirus ha fatto scoprire agli italiani le biblioteche online. Un vero e proprio boom di iscrizioni, prestiti, collegamenti che non si è interrotto neppure con la fine del lockdown. Ben ritrovati anche con questa puntata di Economia delle piccole cose da Anna Migliorati. Vi basti un numero: la versione online del sistema bibliotecario di Milano ha avuto un aumento del 640% delle iscrizioni e il numero di prestiti, o meglio download di libri e audiolibri, ha superato i 57.000 nel solo mese di marzo, più del doppio rispetto al mese prima. E questo non è cambiato da quando siamo passati alle fasi successive. Ma non è l'unico. In Emilia, nel mese di aprile, siamo ad un più 290%. Allora, cosa è successo? La nostra storia. Saluto Giulio Blasi, Media Library, che cura il sistema online di molte biblioteche italiane. Buongiorno. Cominciamo dal principio, ma dal principio vero: il servizio online delle biblioteche in realtà non sono proprio una novità. Allora, noi abbiamo cominciato nel 2009, un anno e mezzo prima che nascesse un mercato degli ebook in Italia. Siamo stati tra i primi in Europa, però siamo in ritardo, diciamo, in Europa complessivamente, di 10 anni rispetto agli Stati Uniti. Cioè, negli Stati Uniti le biblioteche online era un servizio che avevano cominciato a sperimentare nel 2000. Ha anticipato il servizio delle biblioteche online il mercato del libro digitale. Quanti iscritti avevate pre-Covid? Circa 1.150.000. Copriamo tutto il territorio italiano, anche alcuni paesi stranieri. In Italia siamo in circa 6.600 biblioteche. Poi avviene la pandemia, ci chiudiamo in casa e all'improvviso gli italiani scoprono che i libri che non possono acquistare li possono trovare in biblioteca, anche online. Sì. Prendo un parametro: tra gennaio 2019 e aprile 2019 la media degli accessi era di 750.000 accessi mensili. A gennaio del 2020 era diventato circa 1 milione di accessi, quindi una crescita che avremmo avuto indipendentemente dal Covid. Aprile 2020 gli accessi sono diventati 2,5 milioni, più 250%. È un patrimonio enorme quello che c'è a disposizione nelle biblioteche italiane, anche online. C'è una collezione di ebook in commercio, che sono circa 1 milione, di cui 100.000 italiani e circa 900.000 stranieri. Audiolibri, è un catalogo di 90.000 titoli. Film quotidiani, sono oltre 7.100, che provengono da 90 paesi in 40 lingue diverse. Ecco. Spesso senza limitazioni di utenti concorrenti, quindi lo stesso titolo può essere preso da più utenti in contemporanea. Mentre a volte magari il libro fisico, quando è in prestito, non lo si può avere, bisogna aspettare. Parlavamo anche di quotidiani e giornali, perché si è parlato molto della pirateria online esplosa in questo lockdown per i quotidiani, i quali, senza fare invece atti illegali, sono spesso a disposizione proprio nei cataloghi online delle biblioteche. Assolutamente sì, sono le biblioteche che acquistano. Tutti questi accessi così cresciuti in questo periodo, stimate che resteranno, cioè ci saranno un po' più affezionati? Dubito che 300% in più sia un dato stabile, però secondo me questo si proietterà molto facilmente in un 100-150% in più su stabile, e in ogni caso si tratta, diciamo, di un effetto. Diciamo che un raddoppio non è poco. Quello che è cambiato davvero in questo periodo, al di là del fatto che le persone si sono trovate senza libri fisici, è il fatto che i bibliotecari hanno radicalmente cambiato il loro modo di comunicarlo, quindi questo credo che continuerà a avere degli effetti anche in futuro. Voi avete anche dei dati su quali libri libri sono stati chiesti in prestito? Che tipo di libri sono stati chiesti in prestito? Assolutamente sì, e tra l'altro è un dato pubblico, perché se uno va su www.mlol.it, l'ordinamento dei libri è un ordinamento per popolarità, dove la popolarità non è un concetto generico, ma è proprio il numero di prestiti che ha avuto il titolo. Gli utenti possono fare tutti i loro giochi, le loro statistiche. Esatto, in generale nelle biblioteche la narrativa vince alla stragrande su tutti gli altri generi. Questa, diciamo, c'è una sorta di pregiudizio della narrativa in biblioteca. L'Italia ha un numero di persone che vanno in biblioteca molto basso, è circa il 15%, la media europea è il 22%, negli Stati Uniti ci va il 60% della popolazione in biblioteca in un anno. C'è anche lo studio, c'è la lettura per ragioni professionali, eccetera. Qui ho l'impressione che le nostre biblioteche, parlo delle biblioteche civiche, sono un po' indietro. Ti ho fatto guardare nella sezione sbagliata. Come ho potuto essere così stupida? L'ho preso settimane fa, cercavo una lettura leggera. Quello sarebbe leggero. Che le biblioteche, complice la nuova vita digitale, possano vivere una nuova stagione di riscoperta è prova il fatto che i fondi stanziati dal Ministero della Cultura per la filiera del libro prevedono che 30 milioni di euro vadano per un acquisto straordinario di libri da parte delle biblioteche di Stato, regioni, enti locali, degli istituti culturali, acquisti da mettere in cantiere perché siano disponibili al rientro. L'obiettivo è settembre. Ma quanto vale il patrimonio delle biblioteche e avere a disposizione una rete di biblioteche? Facciamo i conti. E per farlo chiediamo aiuto a Rosa Maiello, presidente dell'Associazione Biblioteche Italiane. Benvenuta. Grazie a lei dell'intervista. Quante biblioteche rappresentate innanzitutto, le chiedo? Siamo in tutto circa 3.000 appartenenti a fondazioni, associazioni. Però in prevalenza le biblioteche appartengono al settore pubblico. Comuni, dopo la riforma del Rio, sono passate alcune di queste al controllo delle regioni. E poi ci sono le poche biblioteche scolastiche, nella maggior parte dei casi librerie, cioè scaffali con libri. Se volessimo quantificare il patrimonio delle biblioteche italiane. Certamente l'Italia possiede un patrimonio librario ingente, probabilmente tra i principali al mondo, tra le biblioteche pubbliche statali, tutto l'arcipelago delle biblioteche di università, molte delle quali di antica tradizione, grossi milioni di volumi. Solo sistema bibliotecario di università possiede 2-3 milioni di volumi, anche qualcosa in più. Un numero enorme di libri. Sì. Alcuni dei quali anche di grandissimo valore un singolo volume. Incunaboli, cinquecentine, seicentine, insomma, quindi il patrimonio antico in Italia è probabilmente il più ingente del mondo. Chi paga per le biblioteche in Italia? Perché noi andiamo, prendiamo un prestito in biblioteca, non paghiamo. Sì. No, non lo pagate il prestito in biblioteca, è accessibile perché le biblioteche sono uno strumento del welfare, promuovono l'accesso più ampio possibile alla conoscenza e per farlo devono essere liberamente accessibili. Da dove arrivano i fondi per le biblioteche? Evidentemente da finanziamenti pubblici. Quelle aperte al pubblico, diciamo così, sono le biblioteche pubbliche statali e sono 47. Poi ci sono le 6.500 biblioteche pubbliche censite dall'ICCUM e quelle sono finanziate da pubbliche di base, le di pubblica lettura, quelle sono finanziate, come le dicevo, dalle regioni, dai comuni. Ci sono sono poi in alcune realtà anche cospicui apporti privati, però in alcune realtà dove insomma è forte la tradizione delle fondazioni, ad esempio in Piemonte, appunto. In altre realtà dove non ci sono molteplicità di fondazioni bancarie o d'altro tipo, i finanziamenti privati scarseggiano. Sistema di welfare, come giustamente diceva lei prima. Ma in Italia ha tentato a decollare, in effetti si è affermato verso la fine dell'Ottocento negli Stati Uniti, oddio, insomma, attingendo anche a tradizioni biblioteconomiche proprio italiane, diciamo, è una tradizione che in tempi moderni abbiamo importato dal mondo anglosassone, con alterne fortune. Diciamo che appunto mentre negli Stati Uniti insomma c'è stata una crescita continua delle biblioteche anche in tempi di crisi economica, in Italia appunto si è sempre lamentata questa crisi. Alcuni sostengono forse proprio per questa acuità del patrimonio storico, per cui le biblioteche sono state identificate nella percezione collettiva più in quella roba lì. È un sistema che sopravviverà al digitale, all'ebook e... Tutte le civiltà hanno avuto bisogno di biblioteche e i supporti sono assolutamente secondari, finché appunto ci sarà necessità di attingere alla memoria registrata per non inventare continuamente la ruota, ci sarà bisogno delle biblioteche. E poi l'abbiamo, come dire, constatato proprio nel tempo del lockdown, no? Allora, grazie anche a Rosa Maiello. Non inventeremo ancora la ruota, ma invece buona lettura. Un saluto anche da Anna Migliorati. Noi ci risentiamo con un'altra storia di economia delle piccole cose.